Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Mercoledì 27 ottobre, buongiorno e bentornati di nuovo a tutti su Liberi Dentro Eduradio TV, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Ciao Antonella, sempre qui con me. Ciao Caterina, buongiorno a tutti e a tutti. E oggi le nostre notizie partono da Torino, dove, come sapete, vi è stato la settimana scorsa il Salone del Libro, che è uno degli eventi di editoria nazionali più riconosciuti in Italia, e a cui è stato dedicato uno spazio per l'iniziativa nata a Piombino, che raccoglie la voce dei detenuti, non solo, ma anche un video con i racconti da Porto Azzurro. Si tratta del Premio Letterario Nazionale Emanuele Casarini, che è riservato a persone detenute ed è nato nel 2002 per volontà della Società di San Vincenzo de Paoli e dell'Università delle Tre Età, e che appunto svolgevano da anni opera di volontariato nel carcere di Porto Azzurro. Un premio che prende il suo nome da Emanuele Casarini, che è stato preside e professore, ma soprattutto è stato un uomo con una grande passione per il mondo delle carceri, perché cercava di leggere tra le righe dell'animo umano le storie della gente che ruotava intorno a lui. Un uomo che, pensate, aveva fatto amare ai detenuti di Porto Azzurro la grande poesia italiana. È un premio con una visibilità importantissima in un luogo molto importante per l'editoria, uno dei più noti d'Italia, no? Sì, tra l'altro proprio quest'anno, per celebrare il ventennale del primo premio letterario nazionale riservato ai detenuti nelle carceri italiane, come vi dicevo, questo premio è nato a Piombino come un'iniziativa di puro volontariato dedicato in memoria di Emanuele Casarini. E oggi è organizzato con cura e passione dalla vedova del professore, che si chiama Lucia Paperetti, e questo premio ha permesso alle persone detenute di tutta Italia di esprimersi con poesie e racconti, e di essere pubblicati e letti. E in molti casi anche queste persone hanno scoperto la propria vocazione letteraria, che non sapevano mai di avere prima. Caterina, interessante, ma come è stato organizzato questo evento? Allora, intanto lo slogan era "La scrittura rende liberi", che è stato appunto il titolo dell'incontro torinese, anche condotto da Ernesto Ferrero, che forse, come molti di voi sanno, è uno scrittore, un critico letterario e collabora con la casa editrice Einaudi. Vi hanno poi partecipato Gabriella Raimo, che è presidente del premio, poi anche Davide Casarini, che è il figlio di Emanuele Casarini e presidente dell'Uni3 al carcere di Porto Azzurro, e Pablo Gorini, storico membro della giuria fin dalla prima edizione del premio. Nel corso dell'evento è stato proiettato il video Voci di Porto Azzurro di Maurizio Canovaro ed è stato presentato il libro L'altra libertà, curato proprio da Ernesto Ferrero. Ma devo dire che ciò che ha fatto veramente segno e che contraddistingue questo premio è il fatto che, diffondendo all'esterno le voci del carcere e offrendo quindi ai detenuti la possibilità di essere eletti da una giuria di alta qualità, pensate, ne faceva parte anche Giorgio Faletti, per dire, e di vedere quindi i loro testi stampati sulle pagine di un libro, ecco, questo premio ha già dimostrato più volte come l'esperienza dolorosa del carcere faccia scoprire doti inaspettate in uomini e donne che hanno vissuto l'esperienza della detenzione. Quindi questa è la dimostrazione che a volte percorsi difficili possono portare a esperienze di scrittura inedite. Giorgio Faletti in effetti negli ultimi anni di vita è stato proprio in pianta stabile all'Elba, e poi Caterina, ti ricordi, avevamo incontrato due educatrici del carcere di Porto Azzurro, Licia Baldi e Anna Rosa Valenci, cioè, ci avevano raccontato un sacco di cose sulla loro azione all'interno del carcere. Torniamo però alla letteratura e torniamo a quello che hai detto fino ad oggi, e la letteratura rende liberi in realtà, proprio come suona il titolo dell'incontro torinese, e può in effetti costituire la vera strada per la riabilitazione. Sì, a testimoniare questo sono arrivate molti messaggi alla segreteria del premio, Uno di questi che mi ha colpito molto è di una persona che viene firmata con NC dalla casa di reclusione del Tempio di Pausania, che scrive: la lettura e la scrittura hanno fatto di me un uomo nuovo, mi aiutano a sentirmi vivo e alla ricerca dei valori veri della vita. Quindi questa è una fra le tante che sono arrivate ed è quindi un bel segnale che il Salone del Libro di Torino porti tra le sue tante attività l'omaggio a un premio letterario che dà voce ai detenuti e di sicuro un premio che serve a qualcosa. Rimaniamo con Liu Chu e Beautiful Day e ci rivediamo tra pochissimo. No space to rent in this town, you're out of luck. And the reason that you had to care, the traffic is stuck. And you're not moving anywhere, you thought you found a friend to take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful. Eccoci, bentornati sempre su Liberi Dentro Dora di TV, dopo la pausa musicale, sempre con Antonella. Commentiamo questa volta notizie di cultura e società e parliamo di veganesimo nel mondo arabo. Eh sì, Caterina, parliamo veramente di veganesimo nel mondo arabo perché negli ultimi anni la dieta vegana è diventata sempre più popolare anche nel mondo arabo e anche se la carne resta sempre un elemento importante nella cultura religiosa e sociale del Medio Oriente, molte persone però sono diventate più sensibili ai temi dei diritti degli animali, di un'alimentazione più sana e sostenibile e anche il settore della ristorazione ovviamente si è adeguato alle nuove esigenze. Ci spieghi esattamente che cosa significa vegano e che cosa si intende per veganesimo come alimentazione? Allora, il termine vegano indica una persona che ha deciso in modo consapevole di eliminare dalla propria alimentazione quotidiana tutti gli alimenti di origine animale. Un vegano, infatti, come sai, non mangia carne e neanche pesce, ovviamente, non mangia uova, latte, i suoi derivati e neanche il miele. Questa scelta si intende anche nella vita quotidiana e quindi anche l'abbigliamento, un po' uno stile di vita, insomma, non usano lana, seta, pelle, anche gli stili di vita cambiano perché si cerca di impattare il meno possibile sull'ambiente. E ne consegue che anche altre scelte che sembrano un po' più indirette, tipo la scelta dei cosmetici e prodotti per la cura della casa, non devono essere derivati dagli animali o non devono contenere ingredienti che non lo siano. Tra l'altro anche a volte è difficile capirlo. E alla filosofia vegana si collega anche il tema dello zero waste, che è diciamo la tendenza, sicuramente da diffondere, a non usare prodotti monouso in plastica, scegliere quindi fibre naturali per i vestiti e per la biancheria della casa, insomma tutto quello che può essere sostituito con fibre naturali. Si tratta di un approccio un po' a 360 gradi, quindi diciamo che il veganesimo vero e proprio non si limita al non mangiare animali, però c'è anche da dire che il veganesimo pure è molto difficile nella nostra società, perché ci sono talmente tanti alimenti di origine animale negli oggetti di uso quotidiano che è molto difficile anche individuarli. E basti pensare agli additivi, per esempio, per non parlare poi anche della sperimentazione sugli animali e delle medicine che appunto vengono testate appunto sugli animali stessi. Quindi quando si parla di coerenza, è soprattutto una coerenza che si deve avere con se stessi, perché un vecchio detto buddista ci spiega molto bene come bisognerebbe approcciarsi al veganesimo. Si fa ciò che si può, dove si è e con quello che si ha. Certo, e questo ci fa capire che non è una dieta ma uno stile di vita in toto, e soprattutto all'inizio ci hai raccontato che cosa non possono mangiare, anzi non è che non possono, non vogliono mangiare i vegani, e quindi che cosa mangiano? Guarda, ti leggo una frase di un poeta e scrittore vegano, Vincent, che dice: il vegano è colui che mangia tutto senza mangiare nessuno. E secondo me qui c'è proprio il fulcro del veganesimo. È una frase semplice, però è verissima. Si mangia di tutto, ma qualsiasi cosa non deve assolutamente derivare dallo sfruttamento animale. Quindi via libera a ogni tipo di pasta e cereali, frutta, verdure, semi oliosi, frutta secca, derivati dalla soia tipo il tofu e il tempeh, sostitutivi proteici della carne, seitan, mopur, puorn, muscolo di grano, insomma tantissime altre cose. E da quando poi, tra l'altro, e qui andiamo un attimino nel mondo arabo, nel 2010 l'attivista per i diritti degli animali, la Giordana Mina Tariq, camminò per le strade di Amman, avvolta in foglie di lattuga, per promuovere appunto il vegetarianesimo. Molte cose però sono cambiate da allora. E già nel 2015, infatti, il 5% degli israeliani si definiva vegano, pensa te, mentre negli ultimi anni nei paesi del Golfo si sono affermate molte catene internazionali che ovviamente propongono esclusivamente cibi vegani, tipo Beyond Meat, V-Bites, Cauldron Foods e Tofurky. E poi ci sono anche versioni locali come Veganity, che è uno dei più grandi ristoranti vegani al mondo, aperto a Dubai nel 2019. Ormai ci sono molti ristoranti vegani anche in Libano, Egitto e Palestina, con menu totalmente vegani. Rimanendo sempre nel mondo arabo, tuttavia ci sono ancora molti piatti legati, per esempio, alle festività dove la carne fa da principe, cioè rimane l'elemento principale, no? Eh sì, hai ragione, perché la carne fa parte proprio dell'identità culturale araba ed è al centro di molte festività e celebrazioni religiose. Milioni di musulmani in tutto il mondo macellano una pecora in occasione della Eid al-Adha, che non so se neanche se l'ho letto bene, lo spero, e che segna di fatto la fine del mese sacro del Ramadan, e preparano pietanze a base di carne nelle occasioni più importanti. Inoltre è anche, diciamo, un riconoscimento sociale. È associato il consumo di carne al benessere familiare, e quindi offrire piatti a base di carne è segno di agiatezza. Ma la cucina araba in realtà è piena anche di pietanze naturalmente vegane: insalate, zuppe, falafel, hummus, salse, patate speziali, insomma c'è talmente tanta roba che secondo me il mondo arabo non fa fatica a diventare vegano in realtà, considerato tutta la bontà di cui dispone. E per rimanere in questo mondo così pieno di cose interessanti e belle, vi faccio ascoltare una canzone di Mannarino che si chiama Balla Bilonia. Ascoltiamola insieme. Nigeria ballera, move it, move it. Non piangere amore, balla il boogie boogie. Musica negra, para che tutto sicuri. E tamburi, tamburi, tamburi per i sordomuti. Chovi, shuva, lana maloca. Missis Lava Lava fica molto revoltosa. Seppure siamo nati controllati dal sistema. Tamburi, tamburi, tamburi. Venerdì sera. Balla Bilonia, Bilonia, balla Bilonia. Balla Bilonia, Bilonia, balla Bilonia. Balla Bilonia, Bilonia, balla Bilonia. Balla Bilonia, Bilonia, balla Bilonia. sciango, era morto giù e la banda passò a Stantimbotu, a baby look my car, it's dancing near to you. Sugar daddy, in my sunny sovero with a tropical body. Nevica, nevica, nevica, money, money, dancing, dancing, you stone cool. Mrs. Loca Loca non capisce più. Mucha palabra, significato ningún. Quando parlavano i tamburi, che diceva la tribù? Rieccovi, bentornati, sempre su Liberi Dentro di Radio TV. La seconda parte con l'ospite continua già da ieri con Giulia De Rocco, che è appunto dottoranda in scienze dell'educazione. E stiamo parlando da ieri di lettura in luoghi di privazione della libertà personale. E nella tua tesi universitaria, Giulia, ti sei occupata del servizio bibliotecario in carcere, ma lasciando per un attimo da parte l'anno del Covid, pensi che, in cui le biblioteche sono state chiuse, insomma, però pensi che le biblioteche come luogo di aggregazione di cultura in carcere adempiano la loro funzione? Dunque, dipende da cosa ci immaginiamo. Forse la loro funzione può essere, come dire, suddivisa in step di miglioramento, cioè una funzione base che è quella di erogare i servizi come le biblioteche di quartiere o le biblioteche cittadine, quindi di fornire la possibilità di prendere in prestito e di restituire dei libri di narrativa, di saggistica, di poesia, di manualistica varia, e quindi quella potrebbe essere una funzione che direi che anche in carcere a disposizione delle persone che sono detenute. Ci sono altre funzioni che sia le biblioteche fuori che le biblioteche del carcere potrebbero implementare, che sono quelle della promozione della lettura, della costruzione di spazi in cui le persone possono andare, abitarli, prendere parola su determinati argomenti, leggere insieme, partecipare a delle proiezioni, a delle piccole conferenze, alle presentazioni dei libri, che sono delle attività che generalmente nelle biblioteche vengono organizzate, in alcune di più, in alcune di meno, dipende un pochino da tante cose, dai bibliotecari, dalle bibliotecarie, dalle amministrazioni comunali, da tante cose che si intersecano. Questa funzione in alcune biblioteche del carcere viene promossa, per esempio, dalle associazioni di volontariato, in altre magari un po' meno. Diciamo che una soglia di miglioramento c'è sempre. Quindi la soglia di miglioramento c'è sempre, però è anche vero che i luoghi della privazione della libertà personale sono per l'appunto luoghi particolari, perché a volte noi non ci pensiamo, abituati come siamo all'acquisto online, anche di libri. Ecco, in carcere non è possibile questa cosa, e anche per la promozione della lettura, secondo te può avere un qualche senso le figure di volontari in carcere che magari invogliano a leggere leggendo libri ad alta voce? Sì, molto. Oltretutto penso che leggere i libri ad alta voce abbia non solo la funzione di promuovere la lettura o di invogliare le persone detenute a leggere di più, ma anche di creare un ambiente accogliente in cui la relazione viene facilitata. Quindi sì, certamente la funzione dei volontari è importantissima. Oltretutto loro possono anche essere un tramite per come dire, organizzare anche tutta quella parte di collegamento tra la biblioteca penitenziaria e quelle comunali. Quindi in alcune città viene fatto che grazie a dei volontari le biblioteche si convenzionano, e anche grazie all'amministrazione penitenziaria, chiaramente le biblioteche si convenzionano, è possibile il prestito interbibliotecario. Perfetto, una pausa musicale, Giulia, come al solito. Abbiamo lanciato tutta la settimana con te brani che richiamano anche la gioia di leggere, ma la gioia in generale. E quindi rimaniamo con Pharrell Williams, Happy, e ci rivediamo tra pochissimo. E rieccoci, bentornati dopo la pausa musicale, sempre con Giulia De Rocco. Dicevo poco fa che molto spesso noi da fuori diamo per scontate diverse cose che non sono affatto scontate quando si vive, si passa parte della propria vita in un luogo di privazione della libertà personale. E anche riguardo alla scelta dei libri da leggere, cosa orienta la scelta di certi libri, ovvero da cosa sono determinati i comportamenti di lettura all'interno delle carceri? Ma io penso che ci siano, che questo non differisca molto, se non magari che se vai in libreria c'è un libraio particolarmente bravo a cui puoi rivolgerti e dire che non hai idea di cosa vorresti leggere, se ti consiglia un libro. Io ho una libreria a cui sono molto affezionata qui a Bologna, e quando mi sento un po' persa o quando voglio di qualcosa di nuovo chiedo a Giorgio cosa mi consiglia di leggere. Forse questa è la differenza. Dentro al carcere forse questa possibilità e anche tutta questa abbondanza, no, di cui dispongono le persone libere e che stanno fuori dal carcere non esiste. Il resto, io penso che l'orientamento sia una cosa di cui non si parla mai, che è la copertina. Una copertina invitante o interessante, o che in qualche modo stuzzica la nostra curiosità, fa il suo dovere, ecco. O un titolo che evoca delle cose che ci ricordano delle altre cose, insomma, un po' l'aspetto del libro. Un'altra cosa sono magari dei consigli di altre persone che si incontrano, che siano gli agenti, che siano i volontari, che siano gli educatori, che siano le altre persone detenute. Dei consigli di lettura sono certamente orientanti, oppure anche una disposizione personale a un genere piuttosto che un altro. A una persona piacciono i gialli, a un'altra piacciono generalmente le poesie o i saggi, dipende da tante cose. Giulia, un consiglio per chi ci ascolta tra i bibliotecari delle carceri, perché alcuni hanno ascoltato le nostre puntate e si sono detti molto interessati, un consiglio per fare meglio il proprio compito all'interno delle carceri. Dirò una cosa un po' scontata, ma il consiglio forse è di leggere molto, nel senso che io penso, almeno dalla mia esperienza personale, è che più leggi più hai dei consigli da dare. quindi più si leggono delle cose anche diverse, che portano un po' fuori dalla propria zona di comfort, no? A me per esempio piacciono molto le poesie, invece sul fantasy, sui gialli, insomma non è molto il mio genere, però per esempio ogni tanto mi capita di leggerli per poter consigliare dei libri anche a persone con dei gusti diversi dai miei, quindi forse questo è il consiglio più semplice, ma penso che sia efficace. Grazie Giulia, ci rivediamo domani, ancora un brano musicale, restiamo con i Muse questa volta e grazie, alla prossima. Alla prossima. Rieccovi, bentornati sempre per i saluti di fine puntata. La rubrica a seguire dopo la nostra prima mezz'ora di trasmissione è con l'equipe sanitaria del carcere che ha fatto un'intervista alla dottoressa Chiara Zucchi, che è una psicologa. E vi ricordiamo sempre di scriverci redazione liberidentro@gmail.com oppure Chiesa Santissima Annunziata via San Mammolo 2 40 136 Bologna per la posta cartacea. E vi saluto sempre con Antonella Cortese e anche con Enea Flacco, che ringrazio sempre al nostro fianco in redazione al montaggio di queste puntate, e ci rivediamo domani. Grazie, a domani. Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.